La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua come ogni sabato a quest'ora a raccontarvi tutto il cinema che c'è a Radio 24, La Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi, questo è il nostro settimanale di cinema. Nella settimana, devo dire, veramente meno densa, diciamo così, per quanto riguarda le uscite in sala, solo due film, un po' le vacche magre del post Ferragosto. Da settimana prossima invece si torna a fare abbastanza sul serio con la prima vera grande ondata di film della nuova stagione. Però noi, siccome abbiamo sempre grande rispetto e grande amore per il nostro pubblico, vi abbiamo preparato una puntatina notevolissima, perché oltre alle novità in sala che affronteremo, tra l'altro sono due ma molto interessanti, che affronteremo fra poco con Boris Sollazzo, abbiamo anche una terza parte con una mini inchiesta che abbiamo costruito nei festival di quest'estate, tutta dedicata agli esordi italiani, alle opere prime italiane, ai debutti, a che cosa ci prepara il nuovo cinema per quanto riguarda appunto le opere prime. E poi alla fine di questa trasmissione tutta la quarta parte sarà dedicata a un grande maestro del cinema di tutti i tempi, fatemi dire, che risponde al nome di Roger Corman, che abbiamo incontrato al Festival di Locarno che si è chiuso lo scorso sabato, ed è stato veramente un ripercorrere la storia, quella con la S maiuscola, del cinema non solo americano ma del cinema tout court, con un personaggio con cui potresti stare a parlare 15 ore, perché davvero è una miniera inesauribile di dati, notizie, informazioni, ricordi, aneddoti, con una lucidità che insomma per un novantenne è davvero un grande lusso. Quindi insomma, puntata da ascoltare tutta fino in fondo, questa della Rosa Purpurea, che noi però cominciamo con l'attualità, con l'oggi prima che con lo ieri. New York Academy è il primo film di cui vogliamo parlarvi. Quando mi chiedono quando ho iniziato a ballare, non so mai cosa rispondere. La danza è sempre stata con me. La musica è sempre lì, che brucia dentro di me. Se rimanesse intrappolata dentro, io ne sarei consumato. Questa è la scuola di danza migliore d'America. Benvenuta. Lei è ammessa. Grazie. Più veloce! Di più! Di più! Guarda dove metti i piedi, imbranata. Come ti chiami? Ruby. Io sono Johnny. E allora, i protagonisti di New York Academy. Arriva un momento, ormai da qualche anno, della stagione, ed è esattamente la fine di agosto, in cui c'è un film sul ballo. Fateci caso, è ormai diventata una cosa ricorrente. I titoli più recenti sono ovviamente quello di Step Up, per esempio, ma il passato ci ha regalato Ballroom, ci ha regalato Dirty Dancing, ci ha regalato Footloose, Flashdance, eccetera. Insomma, il ballo come intrattenimento popolare, certo, al cinema, ma anche come desiderio di uscire da una situazione che a volte nelle protagoniste, soprattutto di questi film, è una situazione un po' marginale per tanti motivi. È quel che succede anche in questo caso. Adesso lo chiediamo a Boris Sollazzo, una ballerina di danza classica della Manhattan Conservatory of Arts. Incontra un giovane violinista che fa il musicista di strada nelle vie di New York, e i due, superate differenze e diffidenze, si lanceranno in qualcosa che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Boris Sollazzo, un saluto. Non so se ha cambiato la tua vita a New York Academy, però so che ti è piaciuto. Sì, non ha cambiato la mia vita, però mi è piaciuto, ed è sicuramente, sono un valido tester di un film come questo, perché come sai io sono un grandissimo ballerino quando non mi faccio il menisco ogni volta che tento di approntare dei passi di danza, e questo segna insomma la mia passione per il ballo, e anche quanto magari possa interessarmi relativamente guardarlo, vederlo in un film. In questo senso però riconosco anche che ci sono tanti cult movie che partono da questo punto di partenza, cioè dal ballo, dalla musica, dalla danza, dalle coreografie che diventano cinema, e riconosco che sono dei grandissimi film. New York Academy sicuramente non è tra i capolavori del genere, ma sicuramente è uno degli elementi più validi del genere. Uno, perché ha la capacità, in una situazione in cui ormai si fanno film fotocopia, tu citavi Step Up. Step Up è allo stesso tempo una fotocopia straordinaria e moderna di Fame, e un produttore di film emulativi che fanno paura. Cioè l'estetica di Step Up, la musica di Step Up, persino il contesto narrativo e sociale che raccontava sono stati ripetuti ossessivamente. Qui New York Academy ha due pregi: uno, di non riprendere ossessivamente e in maniera pedissequa a quel tipo di contesto là, anche se si richiama, e poi di prendere come modello non appunto Step Up, cioè non il film di ballo moderno che deve per forza piacere agli adolescenti, ma i film più classici come Fame, ma anche quelli un po' più recenti, ma non così recenti come Save the Last Dance. Questo fa sì che dia quel tocco di vintage e anche di sceneggiatura, lasciami dire, in più, e quella cura che normalmente viene invece negli altri film di questo tipo relegata semplicemente alla parte coreografica di danza e musica. Molto intelligenti sono alcune idee che ha il regista Michael Damian e anche il coreografo Davis, cioè quello di presentare una realtà molto completa. Noi qui abbiamo una ballerina e un violinista, e anche nelle coreografie e nei numeri di musica e di danza, musica e appunto volteggio, acrobazie delle ballerine hanno lo stesso identico spazio, la stessa identica importanza. E questo non è poco, perché per esempio il protagonista maschile, che con il suo violino riesce a fare più o meno tutto, tranne che a vincere una scommessa, perché loro si incontrano purtroppo nel momento in cui lui sta sfidando una crew sotto la metropolitana, in cui cerca di tirar su i soldi per rimanere in America. C'è anche la parte sociale, appunto, il rischio di andarsene, anche questo è molto interessante. Lei sta appena arrivando, è una ragazza che viene da una realtà sociale marginale e assiste alla sconfitta di questo ragazzo che si chiama Johnny, che è costretto a donare il suo violino, tra l'altro, a persone che sicuramente non lo apprezzeranno. E in questo senso si parte da questo parallelismo tra i due, appunto Ruby, che è Keenan Campa, tra l'altro, che è un'étoile di San Pietroburgo ma americana, quindi non si cerca l'attore solo con la bella faccia, ma si cerca l'attore capace. Lo stesso vale per Nicholas Galitzine, che oltre ad essere molto molto bello è anche molto molto bravo, soprattutto sia nel suonare sia nel raccontare il suo personaggio. E al di là della storia d'amore scontata, al di là della ricerca di entrare nella scuola più importante, di vincere le proprie difficoltà sociali, c'è qualcosa in più, c'è il carisma degli attori, c'è il carisma delle arti, c'è la capacità di New York Academy di coinvolgerti in qualcosa anche di leggermente più grande, quando accenna appunto a quanto possa essere inospitale e burocratica la famosa Land of Plenty, cioè gli Stati Uniti d'America. Ecco, sono tutti piccoli tasselli di una coreografia, ecco, se vogliamo, che porta a casa poi alla fine un film estremamente godibile, molto buono per gli appassionati, perché chiaramente troveranno pane per i loro denti, ma anche per chi, come me, magari il ballo non lo approccia nel migliore dei modi, e quindi è leggermente più diffidente. Quindi devo dire, per essere il 18 agosto, evviva New York Academy. Senti ragazzina, mi è chiaro che stai cercando un tuo stile personale, ma ti avverto che nella mia classe non ci sono prime donne. Con questi sembreresti una suora. Stasera devi essere da uno. Ben arrivata. Oh, sei tu? Non pensavo fosse un tipo da smoking. Sono il cameriere. Mi è venuta un'idea. Puoi fare domanda per una borsa di studio di $25,000, oltre alla retta pagata per un anno alla New York Academy. Non mi sembra male. Volete che balliamo con voi in una classe piena di tutù e calzamaglie? Sì. Le ballerine ballano. Punto. Avanti, buffate. Ballo e sacrificio! Più forte, più forte! E Ballo sarà protagonista anche di un altro film molto atteso di questa stagione, una film d'animazione che si intitola proprio Ballerina, è uno dei film più attesi dell'animazione del prossimo anno, anche se quello è inventato nella Parigi di fine Ottocento. New York Academy, il primo film dei due di cui vi parliamo per quanto riguarda le nuove uscite, fra poco torniamo in atmosfera horror. Ricordate The Blair Witch Project? Ebbene, arriva un film che è molto molto molto vicino a quell'episodio e si intitola The Witch. La rosa purpurea. Cosa siamo venuti a cercare in questa landa selvaggia? Lasciando il nostro paese, i nostri parenti, la casa di nostro padre. Per che cosa? Per il regno di Dio. Preghiamo. Eccoti qua. E allora, avete sentito le atmosfere di The Witch, il film di Robert Eggers, che sta facendo gridare un po' al miracolo nel campo dell'horror, un film di cui molti hanno parlato in termini addirittura iperbolici, come uno dei più grandi esordi nel campo dell'horror di questi ultimi anni. Ambientato nel New England, di cui è originario il regista Robert Eggers, nel 1630, anche questa ambientazione così, diciamo, arretrata, così indietro nel tempo, è una piccola novità. O comunque è un periodo non molto frequentato dall'horror. Il film racconta di una famiglia di pellegrini cristiani che viene sconvolta da un episodio che avete sentito proprio alla fine della clip, cioè la scomparsa del quinto figlio neonato che svanisce, sembra, nel nulla. E lì cominciano una serie di episodi, di fatti, di circostanze davvero drammatiche e terrificanti. Il tutto girato con grande mano da Robert Eggers, che è un regista che ha assimilato molto la lezione dei grandi maestri, delle grandi fiabe gotiche, pensate ai fratelli Grimm per dirne una, e pensate a quanto horror ci fosse in quelle fiabe, e lo ha infatti riportato un po' all'epoca in cui fa svolgere il suo film, tra l'altro con una fotografia livida, cupa, molto molto efficace per creare orrore nel pubblico senza inutili accelerazioni, sovrastrutture, effetti esagerati, ma con l'uso della regia, che dovrebbe essere quello che un buon horror deve riuscire a fare. Boris, siamo di fronte a un nuovo fenomeno? Ma siamo di fronte a un nuovo fenomeno, secondo me, di regia sicuramente. Il buon Eggers dall'aria di essere uno che farà parlare di sé molto a lungo, non solo per la capacità e l'occhio che presenta, ma anche per il rigore ormai sconosciuto rispetto all'argomento che tratta. L'argomento è quello dei padri pellegrini sostanzialmente, e quello di voler minare dalle fondamenta il mito americano, il mito del sogno americano. Cioè, lui ci vuole raccontare che il mito del sogno americano nasce da un gruppo di fanatici molto simili, se non peggiori, a quelli che adesso l'America stessa combatte. E non è affatto un punto di partenza banale per un horror, soprattutto se si conta che, a differenza di molti altri horror che portano avanti magari una lavorazione molto veloce, una preparazione altrettanto veloce, qui parliamo di un regista che si è messo a studiare 4 anni fa sulle reali e originali carte dei padri pellegrini, facendo una ricerca etnologica molto profonda e raccontando quasi all'Aneke una comunità che ormai abbiamo dimenticato. Parlo dell'Aneke del Nastro Bianco. Il suo horror non solo è un horror d'atmosfera, è un horror di storia, è un horror di intenzioni, di spiritualità. Noi siamo di fronte a una comunità religiosa che caccia un uomo probo con la sua famiglia, composta da 5 persone, solo perché appunto non tanto non segue le regole stabilite, ma si permette di dubitare di queste regole. Questo punto di partenza fa sì che, come in ogni buon horror, il nucleo delle potenziali vittime, ma chissà se lo sono, venga isolato, e anche che tutti i rapporti, anche malati, che ci sono all'interno di questa famiglia vengano acuiti da questo isolamento. Come capite da questo racconto, il regista riesce a fare 2 lavori. Uno di forte ricerca storica e di anche approfondimento intellettuale, culturale, filosofico, spirituale. Dall'altra parte riesce ad utilizzare tutto questo lavoro, che è quasi documentaristico anche nell'aspetto visivo. Ogni volta che noi guardiamo la comunità o l'assenza della comunità, guardiamo la famiglia, ogni volta che li sentiamo parlare, perché sono tutti attori inglesi che parlano come si parlava allora, sentiamo tutto l'intento e l'impostazione documentaristica del regista, ma allo stesso tempo tutto questo viene utilizzato per raccontare una grande storia che ci porterà ad essere spaventati. Ci sono anche gli stilemi dell'horror, qualche violenza del sangue, ma c'è soprattutto la paura, Ma è poco, è più di un horror d'atmosfera, perché tu hai l'impressione che ci sia anche una sorta di inesorabilità in quello che sta accadendo, una sorta di implacabilità del soggetto che esce fuori da quello che è semplicemente il film. Quindi mi rendo conto che può sembrare esagerato come paragone, ma almeno nell'ambito dei film di genere, secondo me, potremmo avere qualcuno che, pur avendo uno stile molto diverso, potrebbe portarci alle inquietudini che Haneke solo ci ha regalato. E credo che questo sia un complimento molto pesante per un esordiente. C'è anche da dire, ricordiamolo, che il film dai grandi appassionati di genere è stato contestato perché, per le sue ambiguità, per questi 87 minuti che non necessariamente risolvono tutto ciò che aprono. Io trovo affascinante proprio questo. Probabilmente siamo in un periodo, soprattutto in questa estate di distribuzione italiana, in cui sono molto potenti gli horror che vanno ben oltre il genere e diventano cinema d'autore, come succedeva negli anni 70 e come vale anche per chi abbiamo incontrato a Locarno come Roger Corman. E quindi in questo senso, secondo me, è nata sicuramente una stella. Non so se The Witch avrà questo spessore per oltrepassare i tempi e i luoghi e diventare un capolavoro o comunque un cult movie. Di sicuro continueremo a sentir parlare di questo regista, che dimostra, secondo me, un valore molto alto e molto, molto più forte di tanti suoi coetanei. Ha maledetto questa famiglia. C'è il male nella foresta. Questo era The Witch. Grazie a Boris Sollazzo per averci raccontato le due uscite di questa settimana. Ci sentiamo con molto molto più lavoro fra 7 giorni, Boris. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora La Rosa Purpurea continua dopo aver appunto analizzato le due uscite, le due novità in sala di questo fine settimana, tra l'altro, che vede al botteghino la cavalcata estiva di Suicide Squad. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, quasi 2 milioni di euro nella prima settimana, 250.000 spettatori, un film che vale davvero la pena di vedere perché è molto molto divertente. Nel genere dei supereroi è qualcosa di molto laterale, ma devo dire è riuscito piuttosto bene, che ci regala nel personaggio di Margot Robbie una villain al femminile davvero bellissima e straordinaria. Dicevamo già in apertura di trasmissione, adesso si comincia con i nostri speciali, i due speciali, uno è l'intervista a Roger Corman, la sentiremo fra qualche minuto. Prima però soffermiamoci su un tema che mi sta molto a cuore. Quest'estate ho avuto modo di girare un po' di festival e di fare un po' di domande a tanta gente di cinema sullo stato dell'arte delle opere prime italiane. Chi sono i registi esordienti, con quali progetti, con quali film, con quali storie si presentano per la prima volta al pubblico, per la prima volta con un lungometraggio di finzione, perché molti arrivano da cortometraggi, documentari, televisione, esperienze diverse ed esordiscono a tante e diverse età. Cosa possiamo aspettarci, insomma, dal movimento delle opere prime italiane per la prossima stagione? Lo vogliamo fare con una sorta di mini inchiesta, cominciando con un'intervista a un decano del cinema, un produttore che ne ha viste tante, come Maurizio Totti, produttore, per dire, dei film di Gabriele Salvatores, ma anche dei film che hanno lanciato la carriera di tanti giovani registi in un cinema più mainstream, più industriale, più commerciale. E allora sentiamo, cominciamo da qui questa cavalcata. Maurizio Totti alle giornate del cinema di Riccione ci ha raccontato così il suo punto di vista sugli esordi italiani. Maurizio Totti, questi occhi hanno visto tante tante cose che voi umani non osate neanche immaginare. Insomma, però scherzi a parte, sono tanti anni che, come dire, vedi cinema, fai cinema, lanci nuovo cinema. Ti chiedo intanto il tuo sentiment, come dicono quelli che sanno l'inglese, in questo momento rispetto al nuovo cinema italiano, soprattutto alle opere prime, cioè come ti sembrano questi ragazzi, questi giovani che esordiscono in questo periodo? Ma guarda, io credo che le nuove tecnologie abbiano permesso a questi ragazzi di bruciare le tappe, nel senso che arrivano preparatissimi, quelli che hanno voglia di fare questo lavoro, perché bene o male hanno imparato il senso del ritmo, del montaggio, soprattutto su certi generi di film, tipo la commedia, arrivano già preparatissimi. E questo è sul cinema, come detto, professionale. Dal punto di vista invece del cinema d'autore, mi sembra che anche su quel fronte ci siano dei segnali incoraggianti. Noi in questo momento stiamo facendo un cinema invece commerciale, un cinema di commedia, anche se abbiamo in animo di far debuttare Donato Carrisi, per esempio, che è uno scrittore di thriller in un genere, il thriller, che è abbastanza poco frequentato. Però anche lì andiamo con coraggio. Certo, quando mi dicono: ma sei sicuro? La risposta è no, non sono sicuro, ma la vita, il nostro lavoro non è fatto di sicurezza, è fatto di rischio calcolato, diciamo così. Ecco, proprio questo, cosa ti convince che un ragazzo, che un giovane, che un esordiente possa esordire? Ma guarda, io ho iniziato tanti anni fa con Gabriele Salvatores, che non era proprio l'esordio, perché aveva già fatto un altro film perché era uscito in televisione. E Salvatores, che allora per me era uno sconosciuto, anche stato socio mio da 30 anni, e è arrivato e ha iniziato dicendo: il film che ho fatto, insomma, avevo un sacco di problemi, non era granché, poi però insomma ha tenuto gli errori della catena produttiva, distributiva, eccetera, per ultimo, perché poi quando le cose vanno male di solito non c'hanno mai un padre, quando vanno bene tutti a litigarsi. Ecco, per me l'atteggiamento, non dico di, non certo di finta umiltà, ma di umiltà su questo lavoro, il rispetto del pensiero degli altri è una cosa fondamentale. Aggiungi che per me, con un regista che fa l'esordio della regia, comunque fa la regia, io ci passo più o meno un anno di tempo, per cui passare un anno di tempo assieme a una persona non gradevole, con cui non vado d'accordo, è un inferno. Per cui, ecco, uno dei criteri, al di là della storia da raccontare, eccetera, eccetera, ovviamente oltre al curriculum, alla sensazione, al sentiment che mi tramanda quando parliamo, è anche il fatto di andare d'accordo e stare bene. Cioè, mi piace, io sono contento di questi 30 anni passati nel cinema perché ho fatto dei bellissimi incontri. Ecco, i ragazzi di oggi forse hanno una cosa rispetto a quelli, immagino, che esordivano negli anni 70, negli anni 80, cioè arrivano con un bagaglio di film visti, cioè proprio di fruitori di cinema e di serie adesso anche, quindi di linguaggi cinematografici che forma un po' il loro immaginario. Non c'è il rischio, hai incontrato tu il rischio che questo immaginario fosse già talmente ingombro da rischiare di venir meno l'originalità? Questo può essere un rischio, però prima invece arrivavano solo dall'aiuto regia, debuttava l'aiuto regista di scuola. Sai, un conto è essere l'aiuto, un conto è. Quindi secondo me io preferisco rischiare su questi ragazzi. Io mi trovo molto bene, parliamo di cinema, spesso mi sorprendono con la loro competenza e poi ti dico, ripeto, questo non è un lavoro delle certezze. Maurizio Totti alla Rosa Purpurea a parlare di registi esordienti. Questo prossimo mese di ottobre toccherà a I Babysitter, Giovanni Bognetti, è l'ennesimo esordio lanciato appunto da Maurizio Totti. Fra poco continuiamo il nostro viaggio nelle opere prime. Abbiamo detto, c'è chi esordisce con tanta esperienza alle spalle, è sicuramente il caso di Veronica Pivetti e del suo Né Giulietta né Romeo. Tra poco. La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea racconta il nuovo cinema italiano, le opere prime, i debutti, gli esordi di questa stagione appena passata e della prossima che sta arrivando. Scenario di questa intervista è stato soprattutto l'Ortigia Film Festival, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, festival dedicato proprio alle opere prime e seconde, ed è stato un momento importante per fare il punto su questo particolare aspetto del nostro cinema. Abbiamo sentito Maurizio Totti parlarne da produttore, sentiamo invece Veronica Pivetti, attrice pluriaffermata, soprattutto per quanto riguarda le serie televisive, gli sceneggiati televisivi, ma anche con molto cinema alle spalle, che arriva alla decisione di voler raccontare una sua storia. Lo fa con Né Giulietta né Romeo e ci racconta così la genesi del film. Io ci ho messo 4 anni a costruire questo film, a costruire la possibilità di fare un film. Ovviamente il desiderio c'è da molto prima, però per un sbagliatissimo, ma purtroppo caratteriale, pudore che io ho, anche se io forse sembro spudorata, ma non lo sono affatto, un pudore soprattutto rispetto ai miei limiti, che è un altro errore in questo mestiere, non bisogna farlo mai, però io l'ho fatto. Ho sempre pensato, ma posso permettermi di pensare di fare questa cosa? Ma non sarò in grado di farlo. Però guarda, arrivo a dirti, presuntuosamente ho sempre pensato che avrei saputo gestire una situazione così, ma il freno veniva prima, era una cosa a livello mentale. E poi perché comunque il tempo per costruire un film ci vuole. Però io nel frattempo giravo le mie serie televisive, facevo teatro, facevo tante altre cose, per cui poi ti devi dedicare a questa cosa e devi un po' il tempo lo devi rubare, anzi, devi proprio chiudere un capitolo e aprirne un altro, perché è una cosa di grande impegno. Ma il desiderio era forte, da molto tempo mi sono accostata, come quasi fanno tutti, con i cortometraggi. Ho detto, vediamo come mi trovo a gestire un set. Purtroppo mi sono trovata molto bene, quello è il dramma, e non è che mi è passato, ho detto, porca miseria, come mi piacerebbe affrontare quella roba lì. E alla fine, a gomitate, a cornate, sono riuscita, perché poi è così, è una battaglia, sono riuscita a realizzare questo film, di cui sono molto contenta, non perché, non sto dicendo che è bello, non sta a me dirlo, io però sto dicendo che sono molto soddisfatta del lavoro che ho fatto, perché comunque è veramente una grande impresa riuscire a costruire un film, insisto, un'opera prima. Io sto seguendo questo film moltissimo, perché lo sto portando a tutti i festival, agli incontri, faccio proiezioni, faccio qualunque cosa, perché è veramente un figlio, sono figli i film. E poi gli ho dedicato non solo tanto tempo, ovviamente del denaro, ma proprio tante speranze, tanto cuore, sicuramente tanto cuore. E, però appunto mi è piaciuto, e quindi è un discorso che spero di riuscire a continuare a fare. E dai, no, non è morto nessuno. Il mio pisello sì. La ragazza nel bagno con Andrea. Ma chi è? La conosco. Sono io, mamma. Ma tu non sei mica. Dobbiamo parlare. No, anzi, devi parlare con papà. Questa è una fase di transizione. È un momento. Non è un momento, cazzo! Tu vuoi soltanto punirmi perché non vuoi che io sia così. La storia invece di un regista, diciamo proprio più giovane, che vuole fortemente fare un film, sceglie un tema di scottante attualità, di drammatica attualità, come quello dell'amianto nella famosa fabbrica della Eternit, scrive un film che si intitola Un posto sicuro, e poi dopo, per produrselo e per trovare i soldi per farlo, deve lottare praticamente un po' contro tutto e contro tutti, fino a dire, beh, sai che c'è, il film lo faccio praticamente da solo. È il caso di Francesco Ghiaccio, ascoltiamo. Io era da tempo che volevo esordire alla regia, avevo scritto per altri e da tempo appunto stavo scrivendo un film mio proprio insieme a Marco D'Amore, che è protagonista del film ma è anche sceneggiatore insieme a me, e queste storie per un motivo o per l'altro si fermavano sempre, o perché c'era il produttore che ci diceva no, non funziona, non torna, non troveremo i fondi, o perché magari ci fermavamo noi. Invece in questo caso abbiamo saltato il passo produzione. Abbiamo detto, sai che c'è? Questo film ci piace così e noi lo facciamo. Lo facciamo ad ogni costo, con tutti i mezzi che abbiamo. Ci siamo aperti alla città di Casale Monferrato, dove è ambientato questo film, e ci hanno dato subito tanto aiuto, e quindi la macchina era partita. E quando abbiamo messo in moto il progetto, i produttori di Indiana Production ci hanno accompagnato, trasformando quella che era un'avventura in un film vero, nella macchina cinema vera. E quindi posso dirmi fortunato, perché ho potuto veramente fare quello che volevo. Noi qui a Casale abbiamo insegnato al mondo la strada per ottenere giustizia. Di questo disastro non ne sapevo niente. Adesso ci sono talmente dentro che ho paura di non uscirne più. Ho paura che non ci sia più posto per altro. E allora, se Un posto sicuro di Francesco Ghiaccio, che abbiamo ascoltato, è stato premiato all'Ortigia Film Festival con il premio del pubblico, il premio della giuria invece, presieduta da Nicolò Amanniti, è andato a Lo scambio di Salvo Cuccia. Salvo Cuccia è un regista palermitano di grandissima esperienza per quanto riguarda la parte documentaristica, che è arrivato appunto al film di finzione in età matura, e forse è riuscito a scampare quello che è un classico rischio dell'opera prima: ci metto dentro tutto perché poi non ci sarà una seconda volta. Il regista, soprattutto giovane, alle prese con il debutto, corre un po' questo rischio, quello di voler dimostrare molto e magari di affollare troppo il suo film, rischio nel quale è riuscito a non incappare. Salvo Cuccia. Non mi sento di avere fatto, come dire, avere il fiatone per dimostrare qualcosa, anzi al contrario, c'è stata una grande tranquillità da parte mia e da parte di tutti a fare questo film, con uno slancio che era dato dalla consapevolezza di fare una storia che fosse un po' diversa dal filone attuale. Infatti è basata molto su Fuori Campo, e fuori rimangono le pistole quasi interamente per concentrarci sui personaggi e sulle viscere. Questa era la cosa importante, quindi le idee erano molto... E poi, sai, quando uno fa un film d'autore, come si suol dire, d'autore, stai là anche molto tempo per montarlo, farlo, cioè non è una cosa semplice, quindi insomma poi c'è modo di sviscerare tutto con tutti i pregi, i difetti, tutto quello che è. Quindi, sono felice di averlo fatto, perché penso che fare un film per un regista sia veramente un'occasione straordinaria, cioè ti trovi veramente a tuo agio nel mondo della tua creazione. Quindi per ritornare agli albori c'era una frase di Truffaut che diceva: perché faccio il regista? Perché realizzo i miei sogni e sono pagato per farlo. Gemmio, quante volte te lo devo dire? È vivo. Credi Dio, prega per me, peccatori, ed essere loro della nostra morte. Commissario, buongiorno. Non so perché mi hanno portato qui. Tutto a posto. Posso sapere perché sono qui? Buongiorno, signor Buscetta. Buongiorno. Ma che magari pensate che c'entro io questa storia. Allora voglio parlare con l'avvocato. Dopo film americani ti sei visto. E chiudiamo il nostro giro d'orizzonte sulle opere prime con uno sceneggiatore. Sempre all'Ortigia Film Festival abbiamo incontrato Carlo Salsa, che è stato lo scrittore del film, del copione del film di Carlo Lavagna, Arianna, una delle opere prime più interessanti della scorsa stagione italiana, interpretata da Ondina Quadri, una storia delicata, importante, profonda, di sessualità, di scoperta della propria sessualità. Carlo Salsa ci racconta un po' il punto di vista di chi il film appunto lo deve scrivere, un'opera prima la deve pensare, la deve inventare un po', magari senza poi esserne il regista. Quanto ha pesato e quanto invece ha dato libertà il fatto di scrivere un'opera prima? Allora, ha sicuramente pesato e ha sicuramente dato libertà, nel senso che comunque il film parte con Carlo che aveva incontrato degli intersessuali, l'altro Carlo, il regista, e aveva voglia di provare a immaginarsi una storia che raccontasse qualcosa del genere. Quindi noi siamo partiti assolutamente dal tema, senza avere una storia precisa, e proprio anche per il fatto che era un'opera prima, quindi sostanzialmente inizialmente nessuno aveva alcuna intenzione di farcela fare, il film è stato riscritto mille volte con mille storie diverse. L'unica cosa che rimaneva in qualche modo, no, l'unico comune denominatore era la voglia di analizzare un tema che sostanzialmente andava al di là di una problematica sessuale, ma che era il rapporto tra la società, la norma e la trasgressione alla norma, e come la società reagisce di fronte alla trasgressione alla norma. Quindi di fronte a questo la genesi è stata molto ampia, perché non c'erano i soldi per farlo inizialmente, e quindi ha permesso a noi di avvicinarci sempre di più a quello che volevamo raccontare. Dopodiché dei soldi sono arrivati, però i soldi poi sono diventati tipo un decimo di quello che pensavamo, e quindi ci siamo ritrovati a fare un film che doveva avere uno spazio di tempo amplissimo, un sacco di location, così tutto in un'unica location. E questo è stato, che doveva essere il peso maggiore, forse il vantaggio maggiore, perché ci siamo ritrovati ad essere costretti a stare centrati, a stare a fuoco su quello che volevamo raccontare. E quindi il limite in questo caso secondo me è stato un grosso contributo alla scrittura, al fatto di non poter perdere tempo, di dover raccontare solo ciò che era essenziale raccontare, anche in maniera allegorica, ma comunque essenziale. C'è un modo di scrivere una sceneggiatura per un'opera prima? Cioè c'è qualcosa di diverso in generale nell'approccio? Credo di sì. Cioè credo che alla base di tutto ci sia semplicemente... molto spesso chi fa un'opera prima ha anche alle spalle come sceneggiatore qualcuno che ha un'opera prima o un'opera seconda, e quindi c'è una comune voglia di raccontare qualcosa nel miglior modo possibile, e una grande insicurezza di base, che è tecnicamente un difetto, ma che in realtà può essere anche un pregio, perché insomma ti permette di non essere mai soddisfatto fino alla fine, di correggere fino all'ultimo minuto e di non avere mai una parola fine fino a quando la scena non è stata girata. E c'è anche appunto, da un punto di vista proprio metodologico, almeno in questo caso per esempio, c'è stata la mia presenza totale durante le riprese, quindi un cambiamento di idee sul finale, su ogni minimo particolare fino al momento in cui si girava, che questa è una cosa che in un sistema industriale è poco praticabile in qualche modo, no? Quindi la differenza sostanziale è questa, un po' più di anarchia e è un fatto di poter sbagliare con pochi soldi e quindi non aver paura di sbagliare. Una delle critiche che viene portata molto spesso alle opere prime è: ha voluto metterci tutto quello che aveva, perché come se il primo film fosse un film nel quale devi sparare tutte le cartucce perché chissà se ce ne sarà un altro, perché vuoi far vedere quello che sai fare, eccetera. Ti è capitato di percepire questo tipo di atmosfera? Sì, c'è questa cosa qui, c'è il fatto di dobbiamo qualsiasi, tutte le idee che abbiamo avuto nell'arco di questi anni devono in qualche modo entrare in questi 90, 80 minuti che abbiamo. Però dall'altra parte credo che ci sia stato in questo caso in Carlo una lungimiranza importante, nel senso che avevamo talmente voglia che questa storia potesse in qualche modo arrivare, poi magari lo vedranno 10 persone, però 10 persone di qualsiasi tipo che possano essere in qualche modo che possano recepire una storia accessibile. Questo ci ha permesso di archiviare la voglia di raccontare tutto, ma di cercare di raccontare una piccola storia per cui potesse empatizzare qualsiasi persona in qualche modo. Quindi questo ci ha un po' aiutato dal rischio che si ha di voler strafare. Sono nato due volte. Anzi, tre. Bambino la prima. Un giorno stranamente caldo di gennaio, a Roma. Pochi anni più tardi sono nata di nuovo, questa volta bambina. E mia madre mi mise nome Arianna. E allora, questo Carlo Salsa, questi i nostri narratori del mondo dei debutti, degli esordi cinematografici italiani, delle opere prime. Speriamo ovviamente che a partire dal prossimo Festival di Venezia sia una bella stagione per il cinema italiano, che nuovi registi si possano affacciare e che soprattutto il pubblico li vada a vedere, perché vanno sempre incoraggiati con il parere del pubblico per creare una nuova generazione di registi che possa raccontarci le nostre storie anche nei prossimi anni. Uno che l'opera prima l'ha diretta 62 anni fa è Roger Corman, è stato definito il papa del cinema americano. Fra poco ascolteremo l'intervista esclusiva registrata al Festival di Locarno qui alla Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. Space, and this is how the message ran. Science Fiction Double Feature, cantava il Rocky Horror Picture Show, lo ricorderete, il clamoroso film del 1975, un musical straordinario che aveva proprio come sfondo un mondo della fantascienza popolato di King Kong, di spazi profondi, di baccelli che invadevano la Terra, di ragni giganti, di invasori spaziali e astronavi artigianali. Ebbene, di quel mondo proprio il Double Feature era la doppia proiezione, c'era il film importante con le star hollywoodiane e poi c'era il secondo film con lo stesso biglietto, spesso appunto di questa fantascienza, e da lì è nato anche il termine B-movie, perché era proprio un film che stava sulla lista B, dall'altra parte, dall'altra facciata dell'impero hollywoodiano. Ebbene, di quel mondo è sicuramente il più grande rappresentante vivente e direi di tutti i tempi. Stiamo parlando di Roger Corman che è stato ospite recentemente del Festival di Locarno, è un signore che oggi ha 90 anni, una lucidità impressionante, ha tenuto un ritmo di una decina di interviste al giorno, così, tanto per gradire, con dettagli particolari anche inerenti all'inizio della sua attività quasi 70 anni fa. Ebbene, Roger Corman è stato definito il papa del cinema pop americano, il maestro del B-movie. Lui si è sempre un po' ribellato a questa definizione, dice: io sono un artigiano, però B-movie o A-movie è una tipologia che a un certo punto ha cessato di esistere. È stato l'uomo che ha lanciato la carriera di registi straordinari, qualche nome, beh, per esempio Ron Howard, per esempio Francis Ford Coppola, per esempio Martin Scorsese, di cui proprio a Locarno hanno mostrato Boxcar Berta, prodotto da Roger Corman, perché Roger Corman è stato anche un grandissimo produttore, ha inventato con la sua New World, con la sua Factory, un vero e proprio modo di fare cinema. Ha scritto un libro, Come fare oltre 100 film senza perdere un centesimo, che è un vero grande bestseller. Ebbene, è stato un grande onore, un grande piacere incontrare Roger Corman a Locarno e farci raccontare un po' la sua storia, la sua vita, il suo modo di vedere il cinema di ieri, ma guardate, anche molto quello di oggi. Cominciando ad entrare un po' nel personaggio, quando Roger Corman ha cominciato a carezzare l'idea di entrare nel mondo del cinema? My father retired and we moved to California, we moved to Beverly Hills. Mio padre è andato in pensione e ci siamo spostati in California, Beverly Hills. Un buon numero di genitori dei miei amici lavorava nella cinematografia. Un giorno stavamo giocando intorno a un backlot, una zona presso gli studios in cui si fanno le riprese esterne. Ricordo che era un sabato e ci siamo arrampicati sul recinto di quest'area della Century Fox. Qualcuno della sicurezza ci ha visto e ci ha rincorso. Una volta scappati, uno dei miei amici mi ha detto: perché mai ci siamo arrampicati? Mio padre è il direttore di questo posto. Una storia originale, perché poi Roger Corman ha cominciato a studiare ingegneria prima di approdare al cinema. Come ha fatto a virare completamente verso il grande schermo? Mi sono laureato in ingegneria e sono stato in sostanza il fallimento del corso dell'università. Per me fare l'ingegnere non sarebbe stato un bel lavoro, perché sapevo che la mia strada sarebbe stata un'altra. Così ho ottenuto un lavoro come fattorino alla 20th Century Fox. Mi piaceva, ricordo che era emozionante. Era un giovanotto che dagli uffici cercava, per quanto possibile, di portare dei messaggi nei set degli studi dove si facevano film. In quel periodo gli studios giravano 6 giorni a settimana ed era la normalità. L'ufficio lavorava 5 giorni e io mi sono reso volontario per farne 6, così da poter frequentare i set il più possibile e vedere cosa succedeva quando si girava un film. Vieni da lontano? Dal Catai e oltre. Più di 100.000 sono periti questa notte al mio passare. Questo vagare in eterno. 10.000 dormono là dove ho camminato. Sono molto stanco. Ti affatica la stanchezza di quelli cui hai dato il riposo eterno. E tu, fratello? Ne ho chiamati molti, umili e principi, degni e indegni. Ne restano soltanto 6. Un giovane e una ragazza, un uomo e una piccola danzatrice, questa bimba e un vecchio che è rimasto nel villaggio. Sic transit gloria mundi. La maschera della morte rossa, uno dei tre film che Roger Corman ha scelto di mostrare al Festival di Locarno. C'è un episodio che però trasforma la passione per la settima arte in una professione. Well, I was writing. I went to Stanford University. I was writing for the Stanford Daily. A me piaceva scrivere. E quando sono andato alla Stanford University, scoprì che c'era il giornale dell'università. Lì c'erano 2 critici di cinema. Anch'io ho iniziato a scrivere recensioni brevi e col tempo sono stato considerato come uno di quei 2 critici. Così ho iniziato ad analizzare i film più da vicino. Dopo, stando a Beverly Hills, ho conosciuto più persone dell'ambito cinematografico. A quanto pare era nell'aria. I knew people connected with films and I was sort of it was in the air. Roger Corman ha fatto film per praticamente 60 anni. Quanto è cambiata e come è cambiata l'idea di cinema, l'idea di approccio alla settima arte? It changed my way of thinking. I thought that possibly I was too serious. Ho cambiato il mio modo di pensare. Forse inizialmente ero troppo serio e ho dimenticato che i film devono essere in una certa misura intrattenimento. Per questo ho preferito cominciare a lavorare in modo differente, con storie più agitate, movimentate, d'impatto. Ho capito che il testo è soltanto la superficie dietro cui c'è il sottotesto, che è qualcosa a cui mi sono interessato molto. Ad esempio, The Wild Angels in superficie è solo un film d'azione, ma nel profondo è un'analisi della lotta della classe lavoratrice nella società. D'altro canto, quando l'ho girato nel 66 è stato il mio primo fallimento economico. Qualche anno fa però è uscito il DVD con una mia intervista E 40 anni dopo l'uscita del film siamo andati in pari con i soldi. And we finally got our money back with the DVD version 40 years after the picture was made. Yeah. Paul, ciao, Max. Come va la vita? Benone, grazie. Vieni. Fa conto di conoscere tutti qui. D'accordo. Io sono Felix. Paul. Accomodati. Grazie. Accomodatevi. Dunque, dove diavolo ero rimasto? Ah, raccontavo la mia esperienza con quella droga. Paul, tu lo conosci Victor, no? Mm-hmm. È stato lui a portarmi la merce e così l'ho provata. Appena comincio, mi prende l'effetto. Mi trovo come legato a un albero e mi viene una specie di ronzio da impazzire. Allora mi son detto, coraggio ragazzo mio, già che sei in ballo, buttati dentro. Ci sono cascato dentro in pieno, fino nelle viscere. Un passaggio del Serpente di Fuoco, The Trip, nel titolo originale. Nel 67, un anno dopo The Wild Angels, Roger Corman gira questo film che è tutto un trip, appunto, un viaggio con l'LSD. Era il 67, erano gli anni degli hippie, dei figli dei fiori. E cosa fa Roger Corman? Per fare meglio il film si cala un acido, letteralmente, e racconta così la sua esperienza. I took LSD, I felt as a conscientious... Ho preso l'LSD e mi sono sentito come un regista saggio. Mi sono detto, posso fare un film sull'LSD. La cosa principale è che ho avuto un bellissimo viaggio, un fantastico trip. Tutto era meraviglioso. Ed ho creato immagini basate solo sul trip che ho avuto. Questo può sembrare uno spot sull'LSD. Tutti possono connettersi con questo film e capire quello che Dennis Hopper e Jack Nicholson hanno voluto rappresentare. Ricordo che hanno preso tutti l'LSD e che ci fu una grossa discussione. Tutti mi dicevano, hai fatto un pessimo trip. Viviamo nell'era digitale, Roger Corman, che è fatta di telecamere a basso costo, di processi di post-produzione molto economici. Pensa che ci troviamo di fronte a una nuova golden age del cinema a basso costo? Yes, I think we are, and that's an important point. Sì, e questa è una cosa importante. Ciò che dici è corretto. Oggi girare un film è più facile ed economico. Rispetto a quando ho iniziato io, ci sono telecamere più piccole, leggere, ci sono più apparecchiature per il suono. Tutto è più accessibile. Si gira sempre di più nelle location e meno negli studi cinematografici. Certo, filmare nelle location è più difficile, ma garantisce più qualità e questo è meglio per la distribuzione. Quando ho cominciato a fare il regista, era difficile trovare un distributore commerciale. Oggi, molti film a basso costo possono passare attraverso i DVD, la televisione, Netflix, in streaming e altre cose del genere. Penso che questa sia una fortuna. Forse il regista italiano che più si avvicina al suo lavoro è Dario Argento, almeno nel modo di approcciare il cinema. Qual è la sua opinione su di lui? I think Dario Argento is a very good director. Penso che Dario Argento sia un regista molto bravo. Lavora sempre in un incredibile stato mentale. Solo pochi anni prima c'è stato anche Mario Bava, che ha fatto dei grandi lavori. Penso che lui sia stato fantastico, uno dei migliori registi dell'horror. Era partito come cameraman e questo si nota nei suoi film, perché sono sempre ben girati e composti. Il cerchio si stava stringendo. Sapevamo che presto avremmo preso l'assassino. Non che avessimo più indizi di prima, ma dovevamo dire qualcosa al capo. Cosa ne pensi, Frank? Sono tutti lì. Sì, hai ragione. Signor Krellboing, come ce lo spiega? Io non volevo! È vero, agente, non avevo intenzione di ucciderli. Tu, pianta schifosa, hai rovinato la mia esistenza. Nutrimi! Sì, lo farò. Seymour! Non l'ho fatto apposta. La piccola bottega degli orrori, un altro dei capolavori di Roger Corman, ma nella nuova generazione di registi, o comunque nei registi contemporanei, c'è qualcuno che Roger Corman considera un suo allievo, qualcuno in cui vede il suo spirito? I don't know the younger ones. Quelli molto giovani non li conosco bene. Posso dire che amo molto i lavori di Quentin Tarantino, perché ha portato qualcosa di nuovo, di illuminante, come in Pulp Fiction. Ecco. Penso che Pulp Fiction sia un capolavoro. Pulp Fiction is a masterpiece. La ragazza ha cercato di uccidermi. Lei non sa quello che fa. La sua volontà non è la sua. Vuoi dire che è pazza? È posseduta. Ha bisogno del tuo aiuto. Aiuto? E come posso aiutarla? Il castello del barone von Lepp. La troverai là. Non posso dirti di più. Hai visto un grande pericolo. Trova Eric. Eric sa tutto. Dov'è Gustav? Perché? Cosa vuoi da lui? Voglio che mi faccia vedere dov'è il castello del barone Folley. Nessuno vive in quel castello da anni. To the late night, double feature, picture show. E allora questa era La Vergine di Cera, un altro dei tanti, tantissimi film di Roger Corman che abbiamo incontrato appunto questo incontro al Festival di Locarno. Un grande maestro del cinema alla Rosa Purpurea per chiudere questa puntata. La settimana prossima noi ci risentiremo ancora qui alle 18 su Radio 24 per tutto il cinema che c'è. La stagione delle uscite in sala sta per rinvigorirsi, arriveranno 8 nuovi film nelle sale cinematografiche italiane, ci avvicineremo al Festival di Venezia, insomma non mancheranno gli argomenti. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.